persone arrivano per darti un messaggio. È come se in questa vita avessimo ognuno una missione da compiere. È una giornata di sole. Alcuni sogni arrivano mai per caso, quasi nulla è per caso, ma credo che il fato non esista, ma tutto ha un senso. La vita è un'onda di stupore, ma è una giornata di sole, c'è aria di mare, i colori sono chiari, tutto è molto leggero, ma è una giornata di sole. Tutto sembra passare e sto imparando a volare in questo tempo fantastico. Alcune cose accadono quando meno te l'aspetti. Alcuni pensieri viaggiano e non si possono fermare mai in questo tempo distratto, ma è una giornata di sole. Ma è una giornata di sole, c'è aria di mare, i colori sono chiari, tutto è molto leggero, ma è una giornata di sole. Tutto sembra passare e sto imparando a volare in questo tempo fantastico. Vibrazioni che ti fanno sentire vivo, e poi ci sono attimi che restano per sempre lì, e poi amori e sfumature che devi cogliere. È una giornata di sole, c'è aria di mare, i colori sono chiari, tutto è molto leggero, ma è una giornata di sole. Tutto sembra passare, sto imparando a volare in questo tempo fantastico. È una giornata di sole, è una giornata di sole, è una giornata di sole, è una giornata di sole, è una giornata di sole. Ah, ah. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa.